Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dopo le ronde di quartiere arriva il controllo del vicinato e, come prevedibile, arrivano anche le solite polemiche. Ma se i cittadini vigilano, che male possono fare? Si chiede Pierluigi Battista in un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera. Peccato per l'uso vagamente militaresco. Sentinelle. Rischia di ottenere lo stesso effetto nullo delle famigerate ronde. Ma l'idea che i residenti di una via, di un quartiere, di una città mettano a frutto il loro spirito civico non sarebbe da liquidare con insofferenza pregiudiziale. Da discutere, certo, ma non da trattarla come un rigurgito forcaiolo o, peggio, come una smania malsana di farsi giustizia da sé. Negli Stati Uniti si chiama Neighborhood Watch e designa un rapporto di collaborazione tra le autorità e cittadini e vicini di casa che segnalano tempestivamente alle forze di polizia movimenti sospetti di auto e persone sconosciute che incutono sentimenti di allarme. Pare che funzioni. Gli abusi sono ridotti al minimo. L'allarme raramente si trasforma in allarmismo sconsiderato. Non si segnalano episodi di caccia all'uomo. C'è ora una proposta dell'assessore lombardo alla sicurezza, PDL, ma con la contrarietà della Lega, che vorrebbe importarlo da noi. L'esperienza americana, ma anche inglese e tedesca, trasferita in Italia, potrebbe mutare natura e carattere e procurare di conseguenza effetti controproducenti. Anche per le ronde, o come si vogliono chiamare i cittadini che vigilano insieme sul territorio, è accaduto così. In Italia sono fallite perché sovraccaricate di troppi significati ideologici. Così come sono state concepite, assomigliavano a parate in uniforme, a un rito presenzialista completamente diverso dagli scopi di sicurezza nei quartieri che si erano prefissate. Con le sentinelle, il rischio della degenerazione non è minore. E se i cittadini muniti di telefono trovassero finalmente lo sfogo per un'attività delatoria di massa? E se si intrecciassero in questa iniziativa rancori di vicinato, risentimenti di condominio, rivalità di quartiere, faide di rione? Il pericolo c'è. Simile al pericolo che le ronde si trasformassero in squadre di cittadini autorizzati a commettere soprusi o addirittura violenze nel nome della sicurezza. Ma non è piacevole che di un'iniziativa che dovrebbe sollecitare lo spirito civico dei cittadini si vedano solo i pericoli, e nemmeno che si risponda come le formule di rito di chi sostiene che con queste iniziative verrebbero sottratte legittime prerogative dello Stato, con i cittadini che si sostituiscono proditoriamente. Alle forze dell'ordine nella difesa della sicurezza collettiva. Esistono esempi di cittadini che spontaneamente spendono una parte del loro tempo per difendere la comunità in cui vivono, senza che questo possa suonare come un deplorevole esempio di giustizia fai da te. Davanti a molte scuole elementari e medie, non è raro vedere anziani e pensionati muniti di una pettorina molto visibile e riconoscibile che molto tranquillamente, senza pose simil militaresche, senza pretese poliziesche, vigilano sui bambini all'ora dell'entrata e dell'uscita. La loro stessa presenza ha un effetto deterrente sui malintenzionati. Stanno a indicare che una comunità si occupa dell'integrità dei propri bambini e che uomini e donne oramai in età avanzata si vogliono rendere utili con un ruolo rassicurante, senza violenza, anzi con la riconoscenza dei genitori e delle autorità scolastiche che conoscono i pericoli che si aggirano all'esterno delle scuole. Il civismo qui si sposa con un robusto spirito comunitario. La tutela della sicurezza dei più deboli si associa a una presenza tutt'altro che minacciosa. Le sentinelle di quartiere potrebbero essere, anche in questo caso, dei buoni antidoti contro la rassegnazione e la paura. Possono riavvicinare i cittadini e le forze dell'ordine, che, per quanto efficienti e numerose, non possono materialmente coprire ogni palmo della realtà urbana e suburbana. possono ravvivare il senso della comunità, l'idea di un vicinato da difendere e tutelare, di un quartiere da non lasciare in balia di ogni pericolo. Possono restituire persino un significato all'osservanza quotidiana della legalità, all'idea che anche nella vita di tutti i giorni, ogni via e ogni piazza possano essere il teatro di micro illegalità da combattere. L'idea che anche la partecipazione alla manutenzione legale della città non è un esercizio inutile e una perdita di tempo. Potrebbe portare molti benefici la proposta delle sentinelle. Potrebbe, con la speranza che non si risolva nell'ennesimo annuncio e che si sappiano neutralizzare i pericoli, malgrado il pessimismo dell'esperienza. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista «Se i cittadini vigilano, che male possono fare?» dal Corriere della Sera del 24 novembre. Dopo essere stata oggetto di innumerevoli studi accademici, la Divina Commedia è diventata negli ultimi anni anche un fenomeno di massa. Quali sono le ragioni di una popolarità che non accenna a diminuire? È ormai passata in proverbio una delle 14 degnità che costituiscono l'armatura del discorso di Calvino sul perché leggere i classici. Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Per pochi autori della letteratura universale, come per Dante, vale questa verità, confermata ai nostri giorni dalla straordinaria, crescente fortuna della commedia presso il grande pubblico non solo italiano. Perché migliaia di persone occupano piazze e teatri o siedono davanti al televisore per sentir leggere Dante? Al fervido periodo di rinnovamento degli studi danteschi, iniziato intorno alla prima metà del secolo scorso, è succeduto infatti un impressionante fenomeno di massa. Così il testo archetipo del canone letterario occidentale ha conosciuto una diffusione del tutto imprevedibile fino a qualche decennio fa. La poesia è tornata alla sua primitiva, arcaica trasmissione orale. Perché versi composti molti secoli or sono attirano così tante persone a prender parte a spettacoli che, proprio in forza di questa partecipazione di massa, assumono il significato e anche la solennità di riti? Evidentemente la commedia non ha finito di dire quel che ha da dire, e qualunque risposta a questi interrogativi attiene all'enigma della poesia, del suo fascino, del suo magnetismo. Se la poesia è ogni volta una nuova esperienza, come suggerisce Borges, la commedia recitata è evidentemente un'esperienza dell'universale che ha attraversato il tempo senza che le parole di cui è composta perdessero la loro bellezza. Anzi, la loro bellezza risulta arricchita, moltiplicata dal tempo. Una rivelazione per chi non si era mai accostato a Dante. E, al pari di ogni rivelazione, di ogni apocalisse, la commedia, scandita da profezie, vaticini, anatemi, si offre come una scrittura carica di destino in grado di dischiudere un orizzonte psicologico esistenziale, nel quale l'oscurità e la sofferenza della materia coesistono con il silenzio e la luce dell'inconoscibile. Da questo punto di vista potremmo allora dire che attualmente è in corso una riappropriazione collettiva della poesia dantesca come occasione di bellezza e di pensiero. Così si apre un capitolo nuovo del dantismo che, ignorando i travagli della dantologia, conferma che la poesia non è un dovere, come vogliono le scuole di ogni ordine e grado, ma un'occasione che sta sempre in agguato dietro l'angolo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Ghidetti, Il rito della commedia, dall'edizione 2010 dell'Agenda letteraria Dante Alighieri, Metamorfosi Editore, 160 pagine, 18 euro. Letture di Radio 24. Babbi Solo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Rino Gaetano sono solo alcuni degli artisti portati al successo da Vincenzo Micocci, uno dei più grandi talent scout della musica italiana. Il suo nome, però, resterà sempre legato alla canzone che Alberto Fortis gli ha dedicato, dopo che i suoi provini erano stati snobbati. Fu in uno dei nostri incontri a tavola che Ennio Melis mi propose di studiare una proposta che credo gli fosse stata fatta da Milano da Nanni Ricordi, riguardante un ragazzo proveniente da Torino che, insieme alle sue canzoni, era scortato da una serie di autorevoli raccomandazioni di persone di notevole peso, appartenenti ai massimi livelli dell'industria di quella città. Melis diceva che non aveva capito molto della sua musica e mi chiese quindi se ero disponibile a verificare la cosa e ad esprimere il mio parere. Il nome del ragazzo era Alberto Fortis. Aveva la figura e anche lo stile di un ragazzo bene, molto brillante nel raccontarsi, ma anche assai complesso nell'osservare e giudicare quanto avveniva, soprattutto nel suo mondo. Lo convocai così per la mattina dopo. Lui si mise al pianoforte e cominciò a farmi sentire il suo repertorio. Attaccò un suo pezzo e la cosa che più mi imbarazzò, mentre andava avanti, fu che la canzone sembrava non finire mai. Tuttavia, prima che il brano, dopo circa 10 minuti, finisse, avevo cominciato ad abituarmi e ad interessarmi. Ce l'aveva con la mamma, mi pare di ricordare, ma tutto il discorso coinvolgeva soprattutto la sua famiglia e come questa possa condizionare la vita di un giovane proprio nel momento più delicato, quello dell'incertezza della giovane età, specialmente se costui è fortemente indeciso per la scelta della sua vita, se diventare il direttore generale della Fiat oppure intraprendere la carriera di cantautore. Ma a prescindere dal carattere del ragazzo, le canzoni erano ben scritte, anche con sincerità, oltre che con notevole spirito critico. Quindi volli andare avanti nell'ascolto, nonostante che la lunghezza dei brani fosse ai limiti della sopportazione. Tenuto conto che per la canzone si intende in genere che non si devono superare i 4 o 5 minuti di durata. Ora, a parte che in molti casi avevo già sentito canzoni, più straniere che italiane, che oltrepassavano questo limite temporale, mi sembrò di riscontrare che quei testi erano ben scritti e che comunque, nell'ambito dei nuovi prodotti, avrebbero potuto benissimo vedere la luce. Erano canzoni fatte di una materia diversa e comunque interessante, e una volta potate di qualche ramo di troppo, avrebbero benissimo potuto tirarsi dietro l'esistenza di un nuovo cantautore, che tra l'altro, secondo me, andava ad esplorare luoghi dell'anima di notevole attualità, anche perché sottintendevano conflitti psicologici particolarmente coinvolgenti, anche dal punto di vista umano. Così cominciamo a rielaborare i testi, anche per ridurre le canzoni a dimensioni tollerabili. Per la cronaca varrebbe la pena di rilevare che gli argomenti e il taglio di quelle canzoni avrebbero precorso i tempi dei repertori della musica dei rappers di colore e per certi versi, secondo me, anche dell'anime di Cleaning Out My Closet, ma con 20 anni di anticipo. Quanto risultò da quel lavoro mi sembrò sufficientemente significativo e certamente degno di particolare attenzione, tutte cose che comunicai a Ennio Melis, visto che comunque loro l'avevano già formalmente impegnato con un contratto provvisorio. Devo anche dire che nelle settimane seguenti non ebbi alcun segnale dalla RCA, così pensai che stessero lavorando per conto loro ad un eventuale sviluppo dell'operazione. Poi la cosa mi passò dalla mente, perché quello era il periodo in cui con la mia IT ero molto impegnato a gestire gli artisti sotto contratto e a seguire alcuni nuovi ragazzi che bussavano alla porta. Per un po' di tempo non sentii dunque più parlare di Alberto Fortis, finché un giorno, ancor prima di leggerlo io stesso, fui tempestato di telefonate che mi informavano che un giornale segnalava l'uscita di un 45 giri intitolato Milano e Vincenzo, con all'interno del testo una frase che recitava così: «Vincenzo, io ti ammazzerò». Certo, lì per lì la cosa mi lasciò veramente di sasso, ma passato l'effetto sorpresa e avendo interpellato la RCA su che fine avesse fatto il loro rapporto con Fortis, Melis mi disse che loro lo avevano, senza avvertirmi, lasciato libero, perché il suo genere non era sembrato compatibile con le loro linee produttive. Le telefonate intanto continuavano, e posso capirlo, perché si trattava pur sempre di una ghiotta occasione per la stampa in genere, e in particolare per il Corriere della Sera, che nella persona di Mario Luzzatto Fegiz, nella telefonata che mi fece, mi consigliava di tutelarmi con una dura denuncia alla magistratura, anche perché la canzone costituiva una vera e propria minaccia alla mia incolumità. Man mano che le telefonate continuavano a fioccare, io sempre più pensavo che in fondo di quella storia non me ne fregava quasi niente. E questo un po' per il mio carattere e un po' anche perché tutta quella situazione mi confermava il fatto che il ragazzo ancora portava tracce di quella fase adolescenziale di cui in fondo le sue canzoni di quel periodo erano permeate. E orecchiando le sue nuove composizioni da quel momento in poi, mi sembrarono tutto sommato contraddittorie e un po', come si dice a Roma, intorcinate, cioè più allusive che veramente sincere. Comunque quel disco gli servì come lancio per la sua carriera e ricordo che ci fu una trasmissione televisiva che Tele Monte Carlo aveva riservato alla mia persona, Festa di compleanno, condotta da Loretta Goggi, nella quale era stato invitato anche Fortis, che però in quel momento si trovava in America e riuscì a collegarsi con lo studio soltanto per telefono, con un intervento brevissimo, perché poi la linea cadde e non fu più possibile contattarlo. Peccato perché la sua presenza in studio sarebbe risultata sicuramente di aiuto per chiarire tutta la faccenda e per rafforzare il senso della nostra amicizia. Avete ascoltato la lettura di un brano dal libro di Vincenzo Micocci, Vincenzo io ti ammazzerò, la storia dell'uomo che inventò i cantautori. Coniglio Editore, 280 pagine, 19,50 €. In una società in cui la tecnologia viene adottata in maniera trasversale e sempre più pervasiva, anche la disabilità può essere superata grazie all'utilizzo di ausili adeguati, restituendo alla persona un ruolo attivo nella società del terzo millennio. Grazie a metodologie innovative applicate alle nuove tecnologie, è possibile sviluppare le potenzialità residue e quindi supportare l'inclusione scolastica del bambino disabile. Comunicare è un bisogno e una priorità per ogni persona. La comunicazione è un fondamentale diritto umano. Nella comunicazione si apre la relazione con l'altro e si crea la nostra identità personale. In situazioni di normalità, la comunicazione avviene attraverso le parole, la scrittura e il linguaggio del corpo. In molti casi di disabilità cognitiva, sensoriale o motoria, chi ne è affetto non può affidare la sua comunicazione al corpo, all'espressione del viso, alla sua voce o alla scrittura. Le persone con grave disabilità comunicativa vivono una delle condizioni più difficili, quella del silenzio forzato. Sono spesso emarginate e incomprese e sono costrette a uno sforzo notevole non solo per farsi comprendere, ma anche solo per attirare l'attenzione su di sé ed essere riconosciute nei loro tentativi di comunicare. Spesso vengono considerate incapaci di comprendere e di provare emozioni. Vengono interpretate e anticipate nelle risposte. Chi parla domina lo spazio della conversazione e se fa domande, per lo più, non si aspetta una risposta. Le conseguenze del deficit comunicativo si innestano quindi sul piano relazionale, linguistico, cognitivo e sociale e comportano sempre una situazione esistenziale drammatica. Ruth Sienkiewicz-Mercer, una ragazza americana con grave disabilità motoria e comunicativa, descrive tale situazione nel suo libro I Raise My Eyes to Say Yes. Ruth ha vissuto per 12 anni in un istituto per gravi insufficienti mentali, prima che un assistente che la accudiva notasse che il suo sguardo dimostrava partecipazione e comprensione per quello che le succedeva intorno. Ruth ha scritto il suo libro alzando gli occhi per rispondere sì alla scansione dell'alfabeto che le veniva proposta lettera per lettera. Ecco alcune riflessioni tratte dal suo libro. Quando tu non puoi parlare e la gente crede che la tua mente è handicappata come il tuo corpo, è veramente difficile cambiare la loro opinione. Fino a che la gente ha pensato che il mio cervello non servisse a niente e che le espressioni del mio viso, i suoni che emetto fossero senza significato, io sono stata condannata a rimanere senza voce. Coloro che pensano che chi non può parlare non può pensare dovranno per forza riconoscere la nostra intelligenza e la nostra umanità una volta che iniziamo a parlare con loro. Spesso la gente fa un parallelo tra la capacità di parlare e la nostra intelligenza. La comunicazione è un diritto, non un dono. Avete ascoltato la lettura di un brano estratto dal libro La scuola con l'handicap a cura di Davide Cervellin, pubblicato da Marsilio Editori, 390 pagine, 30 euro.